بحب العرق الغربي فلسطين اتبنت وصل بسفن حريه مغطى برايت بعودتك مكون من جسد تزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رساله حره ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحره اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمه الا بوحده الشعب الا برجوع الارض ارجو ناديكم خدر المعادي بشد على الايادي ايادي مساعد محم الموت مطابق بالصوت رافض السكوت وصاحب عيد الصوت اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامه بغفله تمل خدر بلحظه خرجت ادموع بلحظه الشموع تتخطى الوداع هو الابقى سلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف توريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي في توريو إحنا إلا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض E 19:38 minuti primi dai microfoni di Radio Default. Scusate il solito problema tecnico della radio con una scarpa e la ciabatta, va ora in onda Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi dalla Palestina occupata. Ricordiamo velocemente i contatti della radio: www.radiodefault.it per trovare il nostro sito nuovo e super tecnologico, da cui trovate i playerini per sentirci, anche se in teoria ci dovreste stare già sentendo, e le varie descrizioni delle trasmissioni. Per intervenire, fare domande o altro, o mandare maledizioni, c'è il nostro account Skype che è radio.default, oppure la nostra pagina Facebook che è radio.default. E noi oggi abbiamo una trasmissione leggermente anomala dal solito, perché stiamo in onda con Fatima, una compagna che sta in Cisgiordania, in West Bank, che ci racconta, che ci darà alcuni aggiornamenti su le mobilitazioni che si stanno svolgendo nel sud della West Bank, ad Al-Khalil, contro la firing zone. E dopo andremo in onda con un altro compagno che ci parlerà di una mobilitazione contro la cioè per la salvaguardia di Samir Issawi. Pronto? Ecco. Sì, io vi sento. Non partiva il microfono sulla registrazione, ok. Ora ci siamo, non andava in onda la mia voce. Allora Fatima, dici. Tu sei una compagna che vive in West Bank. Sì, esatto. E trasferita 9 mesi fa. Ecco, e hai partecipato a una a un'iniziativa nel sud della West Bank, nella parte meridionale di Al-Khalil, che era contro la firing zone. Esatto, il 29 giugno si è disputata questo torneo di calcio che ha avuto il titolo Right to Play in Our Ground, che è stato organizzato dalla volontà spontanea di alcune persone, sia internazionali sia palestinesi, ed è riuscita a coinvolgere un grosso pubblico, sia con grossi nomi importanti sia a livello europeo, perché ha partecipato il responsabile della delegazione europea, ha partecipato l'alto commissario dell'Unione Europea, sia a livello palestinese, perché ha partecipato il Ministero della Cultura in persona e ha partecipato un sacco di squadre, 5 squadre palestinesi di tutta la Cisgiordania. Quindi ha avuto il duplice scopo di attirare l'attenzione sul problema sia da parte internazionale sia da parte locale, portando gli stessi palestinesi a rioccupare, appunto a avere il diritto di giocare sulla loro terra. Quindi è stato coinvolgente per entrambe le parti, diciamo. Questa mobilitazione, ci dicevi, è avvenuta contro la firing zone. Ci puoi spiegare cos'è questa firing zone? Sì, in particolare la zona sud di Al-Khalil dove si è svolta la partita si chiama Firing Zone 918 e ce ne sono varie di firing zone in Palestina. Occupano circa le aree denominate firing zone, occupano circa il 18% della Cisgiordania, quindi tutto il 18% di terre palestinesi. E in particolar modo la partita non si è potuta svolgere all'interno della firing zone, proprio perché è completamente sotto il controllo militare israeliano, quindi non c'è bisogno di chiedere un permesso che non sarebbe mai stato rilasciato. La partita è stata giocata in un villaggio a ridosso del campo di tiro della firing zone 918, in un villaggio che si chiama Kaika. Ciò nonostante c'è stato poi un posto di blocco israeliano subito dopo che il convoglio delle auto, dei pullman con tutti i giocatori, i giornalisti e gli spettatori è arrivato, c'è stato un convoglio che ha chiuso l'area, quindi nonostante non siamo in firing zone il trattamento è stato lo stesso, ma per fortuna nel momento, visto che l'alto commissario dell'Unione Europea è arrivato in ritardo, è stata la prima persona fermata dal posto di blocco, che quando si è resa conto che aveva a che fare anche con degli altri esponenti dell'Unione Europea, ha poi deciso di rimuoverlo. Questo era un inciso per dire che comunque la partecipazione internazionale è importante, forse non può essere, cioè può assumere veramente tanti aspetti, anche quello semplice di rendere possibile di giocare una partita di pallone, e questo era un inciso. La firing zone che cos'è? La firing zone è un'area che viene, un'area chiusa, un'area militare che viene adibita a training, ad addestramento. E occupa circa il 18% della Cisgiordania e coinvolge aree dove ci sono 38 villaggi, 38 comunità palestinesi con complessivamente circa 5.000-6.000 abitanti, di cui la maggior parte sono beduini. Come spesso il problema, oltre che essere un problema di tipo di diritto umano, è anche un problema proprio di tipo legale, perché quello che mi preme sottolineare è che un paese ha il diritto di dichiarare una zona firing zone qualora l'addestramento militare sia un addestramento militare di urgenza, necessario per rispondere a un pericolo. Non può essere una zona di addestramento generale, di routine, quotidiano. E la zona in sud di Al-Khalil, questa qui della 918, è stata dichiarata firing zone nel 2006 da parte di Israele, quando c'è stata la guerra con il Libano, quindi dando come motivazione che avevano bisogno di più terre sulle quali allenarsi per quella guerra in Libano. Ma è stato provato che la tipologia di allenamento non è una necessità militare, così come richiede la quarta convenzione di Ginevra, bensì è una normalissima allenamento dei soldati israeliani. Quindi Ancora una volta, il problema non dovrebbe neanche sussistere, perché per la legge internazionale questa area non è firing zone. Quindi ancora una volta bisogna parlare della concretezza del problema, perché non è soltanto una questione di diritti, non è soltanto una questione, comunque sono fondamentali, non è una questione di essere pro-palestinese o di essere commossi davanti a tantissimi bambini che non hanno accesso all'acqua, che non hanno accesso alle scuole. È un problema anche di ordine legale internazionale ed è importante sottolinearlo, secondo me. Forse sono stata molto lunga, scusa. No, tu dicevi che appunto la firing zone è una zona chiusa abbiamo un'altra domanda. Scusa, non ti sento più. Non ci senti? Molto molto male. Aspetta, No, non ti sento. Ora ci senti? Sì, lontani, provo. E praticamente tu ci dicevi che la firing zone, oltre appunto a essere illegale appunto dal punto di vista del diritto internazionale, ricade esclusivamente in zona palestinese, no? Sì, assolutamente. Assolutamente, ricopre il 18% del West Bank, e per renderci conto la zona A, quindi la zona sotto diretto controllo dell'autorità palestinese, ricopre meno del 17% della West Bank, quindi parliamo di zone molto grandi in realtà, che vengono annesse al controllo israeliano sotto altre sfoglie, sotto altre sfoglie. Tu ci dicevi appunto che il appunto ricadendo in territorio completamente palestinese, oltre al problema del non poter svolgere la partita di calcio di protesta, ovviamente colpisce anche la popolazione locale. E in che forme colpisce la popolazione, e soprattutto ci puoi fare una descrizione un po' sociale della zona in questione? Sì, ci sono veramente moltissime forme in cui la popolazione viene coinvolta in maniera discriminatoria e negativa. Prima di tutto bisogna cercare un po' di immaginare di che zone parliamo. Quella al sud di Al-Khalil, dobbiamo pensare a un grandissimo deserto, per cui il panorama è tutto di dune sabbiose, in cui non c'è molta acqua, e completamente scollegate dal Khalil stessa. Per arrivarci ci vogliono una buona mezz'oretta su strade completamente dissestate. E quindi abbiamo prima un problema di tipo sociale e diciamo di vita quotidiana, di non accesso all'acqua, di non accesso a strade pavimentate, di non accesso alle scuole, di non accesso ai servizi sanitari, eccetera. Il secondo problema è che tutte queste aree sono completamente circondate da settlement caratterizzati da coloni spesso particolarmente violenti, perché sono coloni che vengono categorizzati coloni religiosi, quindi persone che occupano quel terreno perché credono realmente di avere un diritto, di avere qualsiasi tipo di immunità di fronte a questi territori. Per cui la presenza dei settlement si traduce sia in una grandissima violenza nei confronti dei palestinesi, sia in una maggiore usurpazione di quelle poche risorse che ci sono, e mi riferisco soprattutto all'acqua. Cioè, già c'è veramente poca acqua in quella zona, sicuramente va tutta quanta nel settlement. Quindi questo è per parlare soltanto dei problemi di tipo sociale, di vita quotidiana. E poi c'è un problema enorme, che è quello degli ordini di demolizione. Di questi 35 villaggi, la maggior parte, per esempio nella zona Firing Zone 918, questa appunto di cui parliamo, su 12 villaggi appartenenti a quest'area, 8 hanno ordini di demolizione al 100%, quindi vuol dire che qualsiasi struttura, casa, chiesa, scuola, moschea, negozio vadrà distrutto e queste 5.000 persone andranno dislocate. E questo fa parte di un piano molto più grande, che è anche un piano di displacement, di spostamento, soprattutto della che va a colpire la comunità beduina, perché la maggior parte di queste persone che vivono in questi villaggi sono beduini, e i beduini sono molto allettanti per Israele, perché sono grossi proprietari terrieri, hanno grandissimi spazi di terra proprio per il loro tipo di vita e anche per il proprio tipo di tramandare la terra di generazione in generazione, ma allo stesso tempo è una fetta di società molto vulnerabile, perché data la sua caratteristica di nomade e di essere un po' al di fuori del nucleo della società, è molto più in difesa. E quindi allo stesso tempo un nemico molto facile da battere, e allo stesso tempo prendere un sacco di terra. Questo è anche molto un po' il piano che c'è alle spalle di questa manovra della Firing Zone in generale, e quindi anche quella al sud di Al-Khalil. Ovviamente ci hai fatto una descrizione, ci hai parlato, no, di questa famosa area Shia a controllo quasi esclusivamente israeliano. Ora, leggendo ultimamente i giornali internazionali, esce fuori un nuovo tentativo da parte del segretario di Stato Kerry di mettere a negoziato l'autorità nazionale palestinese e i ministri dell'entità sionista, che in teoria dovrebbero discutere di un territorio di uno Stato palestinese sulla linea del 67. Tu, vivendo là, quindi parlando proprio della Firing Zone, dove appunto dove il grosso del territorio della West Bank è controllato dall'entità sionista, ti sembra ti sembra credibile questo ritorno ai confini del 67? No, la risposta è secca e netta. No, perché vivendo qua uno veramente si rende conto che non c'è assolutamente nessuna volontà da parte dello Stato sionista di cedere un singolo centimetro di quello che hanno occupato. Anche perché quando si va poi nel dettaglio di questo tipo di accordi, quindi delle varie ipotesi dei due stati, c'è sempre da parte dello Stato sionista la proposta di fare degli scambi di territorio, mantenendo la stessa percentuale complessiva. Quindi il gioco astuto qual è? Ok, manteniamo le stesse proporzioni che erano state date all'epoca e facciamo anche finta di crederci, ma queste proporzioni le cambia, cioè l'origine, la dislocazione delle terre la cambiamo, quindi io ti do un pezzo di questa terra e tu me ne dai un pezzo di un'altra, e ovviamente gli scambi che vengono proposti da Israele non sono mai, mai, mai in alcun modo vantaggiosi per la Palestina, sono sempre scambi ridicoli, ridicoli. Quindi no, la mia risposta è che non vedo assolutamente nessun margine di discussione, di seria contrattazione o tavolo di discussione tra lo Stato sionista e l'autorità palestinese oggi su questo tema, onestamente. Secondo, penso che qualsiasi tavolo di discussione, io mi auguro un futuro che venga messo tra lo Stato sionista che conosciamo e un'autorità palestinese un po' cambiata, perché è anche molto facile fare accordi con questa autorità palestinese. Non ho il sentore che rispecchi veramente una grossa identità nazionale, amor proprio nazionale, una grossa presa di posizione per la Palestina. Un esempio che posso fare a questo proposito è come è andata a finire la candidatura di Battir. Battir è un villaggio vicino Bethlehem che era stato candidato a essere patrimonio dell'UNESCO, e questa candidatura avrebbe salvato Battir dalla costruzione del muro di separazione. Questa candidatura è stata accettata da parte dell'UNESCO, e ricordo tra parentesi che l'UNESCO è stata la prima organizzazione internazionale a riconoscere la Palestina come uno Stato membro, neanche paese osservatore, Stato membro. Questa candidatura è stata accettata, c'erano grossissime speranze che venisse poi riconosciuta vincente, ma è successo che c'è stato uno scambio, diciamo, di favori tra l'autorità palestinese e lo Stato sionista, per cui se l'autorità palestinese avrebbe rimosso la candidatura di Battir all'UNESCO e lo Stato sionista in cambio avrebbe permesso la delegazione dell'UNESCO di visitare Gerusalemme Est, Gerusalemme, diciamo, la parte ebraica, è quella che per gli accordi dovrebbe poi essere la capitale dello Stato di Palestina. L'autorità palestinese quindi ha ritirato la candidatura di Battir, ovviamente lo Stato sionista non ha stato ai patti, quindi ha impedito alla delegazione dell'UNESCO di visitare Gerusalemme Est, e in tutto questo chi ci ha perso è la Palestina, è questo territorio, è Battir. Battir non sarà più il villaggio di terrazzamenti di olivo e di acquedotti romani che conosciamo, ma avrà al suo mezzo il muro di separazione. Perché? Perché questa autorità palestinese scende a qualsiasi tipo di patto con lo Stato sionista, non avendo realmente a cuore il futuro di uno Stato palestinese. È molto triste. Quindi io mi auguro che se ci dovranno essere contrattazioni, decisioni, tavoli di consultazione, perché tanto la politica fa sempre il suo corso, questo possa accadere con un'autorità palestinese degna di rappresentare questo popolo veramente fiero e coraggioso e forte e dignitoso, se lo meritano. Sì, tra l'altro ricordiamo anche che quando hanno provato a fare le denunce alle varie corti penali internazionali, i ministeri delle finanze dell'autorità nazionale palestinese hanno scoperto miracolosamente di non avere soldi in cassa per pagare materialmente questi ricorsi, quindi insomma è un po' un cane che si morde la coda. Questa è una scusa, infatti. Sì, quando poi era già una cosa abbastanza nell'aria ancora prima che che a novembre la Palestina fosse riconosciuta come un paese osservatore, che la controparte, diciamo, l'altra merce di scambio doveva essere quella che Abu Mazen non ricorresse all'AIA, era il dazio da essere, il dazio da pagare. Questo onestamente ben pochi palestinesi qui sono sorpresi, sono schifati, arrabbiati, ma non sorpresi. E un'ultima domanda, qualche giorno fa c'è stata una manifestazione per le strade di Ramallah di manifestanti mascherati appartenenti a un gruppo che si autodefinisce Tamarrud, un po' come la campagna egiziana, che hanno lanciato, mi pare, una manifestazione per il 14 di agosto, o comunque hanno fatto un appello più generale alla ripresa di un movimento di resistenza contro l'occupazione, anche con parole d'ordini radicali. Tu ne sai qualcosa, Fatima? C'è qualcosa, c'è qualcosa che qua non è arrivato, che sulle prossime mobilitazioni, se sai anche cos'è questo gruppo? Ma questo gruppo onestamente non lo conosco e ha sorpreso anche alcuni miei amici palestinesi e anche per la schiettezza del gruppo, perché hanno proprio chiamato per una terza intifada senza utilizzare mezzi termini, hanno richiamato la popolazione a prendere in mano il fucile utilizzando queste parole, quindi non l'hanno mandata a dire. Non è la prima volta che sento un richiamo del genere. Due o tre mesi fa c'è stata una grossa manifestazione da parte del gruppo armato di Al-Fatah nel campo rifugiati di Balata, vicino Nablus, dove appunto di nuovo il messaggio era molto chiaro: abbiamo bisogno di ritornare a combattere. Sì, a febbraio l'hanno fatto anche a Jenin. Quando? A febbraio scorso. Questo mi è sfuggito, non lo ricordo adesso. Appunto, quindi è sicuramente nell'aria di nuovo un malcontento, una stanchezza e una voglia di cambiamento. Ma quello che ho anche percepisco è che il malcontento questa volta ovviamente è anche più indirizzato all'interno, nel senso la popolazione si rende conto che non può essere rappresentata da questa autorità palestinese per essere credibile, per ottenere quello che la maggior parte desidera, cioè uno Stato indipendente della Palestina. Quindi non ho proprio idea di che tipo di forma possa prendere questa eventuale terza intifada, se una lotta più interna o una lotta comunque focalizzata e orientata su Israele. Questo non lo so. Da un altro lato, alla fine possiamo parlare di firing zone, possiamo parlare di diritti dei bambini, possiamo parlare della situazione delle donne, possiamo parlare dell'acqua, ma il problema alla radice è uno, cioè l'occupazione. Quindi alla fine forse l'obiettivo è anche chiaro, non lo so. L'altro elemento che è interessante di questo gruppo è che hanno manifestato tutti quanti mascherati con le cuffie che coprivano completamente il volto. Questo da un lato è normale ed è comprensibile, perché come dicevo prima c'è anche un problema molto grosso interno di autorità palestinese, per cui moltissimi attivisti palestinesi vengono arrestati dalla stessa polizia palestinese in cooperazione con la polizia israeliana. Quindi anche di mostrare il proprio viso qui a Ramallah o in un'altra città della Cisgiordania è molto rischioso. Quindi erano tutti quanti mascherati. Da un altro lato però, quindi questo è comprensibile, però da un altro lato questo non aiuta molto a fare gruppo, perché le varie persone palestinesi con cui ho parlato non li conoscono, quindi sarebbe non è così semplice in realtà entrare in connessione con loro e capire chi sono. E in un contesto del genere è anche una cosa da prendere con cautela, perché c'è comunque un sistema di infiltrazione israeliana anche nelle città della Cisgiordania, quindi io sono attenta a questo segnale, ma lo prenderei con tutte le cautele, perché appunto non conoscendo chi sono e sapendo che Israele c'è in Palestina, c'è veramente anche tra la gente comune, vediamo che cosa succede, non vorrei bilanciarmi più di tanto. Allora, grazie, è stata completamente esaustiva. Noi ti ringraziamo Fatima Rossi dalla West Bank occupata. Volevo solo dire una cosa, concludere dicendo chi ha vinto il torneo di calcio, visto che siamo partiti da qua. Il torneo di calcio è stato vinto dal Municipalità di Yatta, che appunto la municipalità che ha ospitato tra l'altro il torneo di calcio ha disputato la finale con la municipalità di Al Khalil e la partita è stata vinta ai rigori, quindi è stato appassionante fino alla fine. E l'ultimissimissimissima cosa che vorrei dire a noi che siamo internazionali: il messaggio di questa partita di calcio era anche quello di spronare la comunità europea, perché l'Unione Europea nel maggio 2012 ha fatto una dichiarazione ufficiale attraverso il Consiglio degli Affari Esteri proprio per mirata alla zona C della Palestina contro la degradazione della qualità di vita dei palestinesi, contro il spostamento forzato della popolazione, in particolar modo dei beduini, e contro le demolizioni delle proprietà private. Quindi, visto che siamo europei, diamogli una svegliata, questa dichiarazione del maggio 2012 deve avere un passo in più. E allora ti ringraziamo, noi ti chiediamo un attimo di rimanere in privato per darci un attimo un saluto in privato. Noi torniamo fra qualche minuto con la corrispondenza sulla campagna per salvare Samir Issawi. Intanto vi mandiamo un Kulsum, la grande cantante egiziana che canta Half Lila U Lila. Ciao! vivi. يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء ونجوم وقمر وقمر وصغر وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. Believe. احبك كنت ازاي يا حبيب ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي كنت ولا امبارح فاكره ولا عندي بكره استنى ولا حتى يومي عايشة يا حبيبي كنت ولا امبارح فاكره ولا عندي بكره استنى ولا حد يومي عايشة يا حبيبي ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي Abbiamo la regina d'Egitto, un Kulsum, e riprendiamo con la trasmissione di Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi dalla Palestina occupata. Abbiamo appena sentito una compagna dalla West Bank che ci raccontava le mobilitazioni sulla firing zone. Ora invece rientriamo nello stivale perché siamo in abbiamo una corrispondenza di Dino Barberini, che è un compagno che sta seguendo una campagna per la salvaguardia di Samir Issawi, il prigioniero politico palestinese ben noto a chi ascolta la nostra trasmissione e chi segue la Palestina, la situazione palestinese, in quanto è stato lo scioperante della fame più longevo della storia umana. È brutta dirla così, ma insomma ha fatto ben 8 mesi di sciopero della fame e contro la sua carcerazione da parte dell'entità sionista, però i problemi, e è riuscito appunto ad avere a strappare un accordo con il sistema carcerario israeliano, però i problemi non sono finiti. E ora appunto sentiamo Dino cosa ha da dirci. Ciao Dino. Ciao, buonasera. Senti, ma Samir Issawi è un po' il termine di paragone dello stato di illegalità di Israele, per i motivi che già conosciamo, l'occupazione naturalmente, ma anche questo episodio è significativo. Samir Issawi è stato condannato a 26 anni di galera, carcere, chiamala come diavolo vuoi, con un'accusa di terrorismo. In seguito allo sciopero della fame, che lui non ha mai interrotto dall'agosto del mese precedente all'aprile di quest'anno, è riuscita a tribunali non con le autorità giudiziarie israeliane, ma un accordo con i carcerieri, e lui ha sempre negato la competenza dei tribunali israeliani a giudicarlo, e ne possiamo parlare dopo. Sono diventati 8 mesi. Che cosa? 8 mesi? Dino, noi ti sentiamo male. La linea va e viene a scatti. Senti, proviamo un attimo a chiudere la connessione e a richiamarti. D'accordo. Ok, allora noi ritorniamo, mandiamo uno stacchetto musicale e torniamo a Un Kulsum. E pare che siano terminati i problemi tecnici. Proviamo a risentire Dino per la campagna di Samir Issawi. Ci senti, Dino? Ecco, sì, sono qui. Io spero di essere in grado di farmi capire ora. È possibile? Mi sentite? Ti sentiamo benissimo, ok. Ecco, allora io dicevo che la storia di Samir Issawi è una storia significativa per tutta la Palestina e per il mondo occidentale. Issawi non ha trattato con le corti israeliane la sua riduzione di pena da 26 anni a 8 mesi, ha trattato direttamente con i carcerieri, il che dà per dato che praticamente lui è stato assolto dall'accusa di terrorismo per cui era stato condannato a 26 anni. Non è stata una corte che ha sancito questo accordo, è stato una trattativa con i carcerieri che per loro diritto che lo Stato israeliano gli dà, carcerieri militari, hanno tramutato la sentenza a 26 anni in 8 mesi di carcere. Avete capito? Pronto? Pronto? No, ti sentiamo. Ecco, no, insomma mi sono spiegato, ho spiegato. Allora, questo è ovvio. Lo Stato di Israele, come noto, ma come non viene mai evidenziato in maniera netta, è uno Stato che ha le basi sull'illegalità da ogni punto di vista, perché Issawi ha sempre negato competenza e legittimità ai tribunali che lo condannavano, che lo giudicavano, ed è riuscito, perché hanno avuto paura di questo morto, perché lui stava morendo. E quindi per i capelli sono arrivati e hanno detto facciamo l'accordo, se no scandalo internazionale, un morto nelle carceri, no? Però, capito, non c'era uno stato giuridico che sanciva la sua condanna, era la decisione di un militare della potenza occupante che aveva condannato Essaoui nonostante non avesse legittimità a giudicare. Questa è la sostanza. Questa storia della legittimità è fondamentale. Fatima, che è molto brava naturalmente, ha citato l'ICC, la Corte Penale Internazionale dell'Aia. Ecco, c'è un'assenza da parte delle mobilitazioni o delle solidarietà, c'è un'assenza a trattare i grandi temi politici della realtà palestino-israeliana. La Corte Internazionale di Giustizia dovrebbe essere oggetto di una mobilitazione internazionale. Vale poco fare il boicottaggio del Soda Stream, che è un pezzettino della realtà israeliana, ha interferenze in tutte le grandi. Non è Sudafrica, insomma, che aveva da vendere che cosa? Niente, sono i negri e basta. Israele non può essere boicottato, possono avvenire degli episodi singoli, marginali, ma la sua presenza nell'economia mondiale è da protagonista assoluto. Però manca una politica, una rivendicazione, una mobilità. State capendo? Sì, ti sentiamo a scatti e. Però sì, Male? stiamo si capisce, però la comunicazione è abbastanza disturbata. Così, però se, io spero che si capisca. Cioè, quello che voglio dire, l'International Criminal Court, per il quale anche la Presidente recentemente ha sollecitato Abbas ad aderire, dovrebbe aderire al Trattato di Roma. Preliminarmente, poi alla Corte internazionale, ma è quella la via, cioè dobbiamo battere la solidarietà internazionale, deve battere il tasto politico. I palestinesi, poveri loro, possono fare soltanto una rivolta a carattere morale, ma non hanno potere. Se non c'è una solidarietà internazionale di natura politica, la situazione è compromessa definitivamente. La NABCA, che è stato quel disastro di una volta, questa volta sarà veramente definitiva. definitiva, perché anche gli interventi sull'area C, quella di Gerusalemme, non soltanto i beduini, ma l'operazione grossa che tra l'altro ha visto il protagonista Issawi, al quale gli era stato detto fin dall'inizio: bene, ti mettiamo in libertà, però tu vai in Italia o vai dove... In Italia gli era stato proposto: vai in Italia o vai dove cazzo ti pare, però non torni a Gerusalemme. Lui ha detto: cari miei, quella è la mia terra. Io vado a fare il turista nel mondo quando la mia terra sarà libera, ma voi avete un progetto preciso di liberarvi dei palestinesi a Gerusalemme Est, di giudaizzare, di rendere giudeo tutto Gerusalemme Est e tutta l'area C, che è l'area fondamentale della Cisgiordania. E quindi questo, capite, è stato il fatto di grande valenza politica, da leader di grande spessore da parte di Samer Issawi, che si è rifiutato e stava morendo, si è rifiutato di avere la libertà perché lo deportavano, lo mandavano via, lo tiravano da Gerusalemme. Sarebbe stata una bandiera per Israele dire: ma che diavolo volete che è da Gerusalemme? Persino il vostro Samer, dimmi qualcosa, interrompimi, così facciamo un po' di... Senti, tu parlavi appunto di una ripresa di una solidarietà internazionale. Tu sei tra i promotori di una petizione che, tra l'altro, noi quando abbiamo parlato di prigionieri politici abbiamo anche letto, una petizione per la salvaguardia di Samer Issawi. E ci puoi raccontare un po' di questo strumento, di questa campagna che state portando avanti e di quali sono le condizioni attuali in cui versa Samer? Guarda, una delle componenti del gruppo, Luisa Costalbano, ha fatto un piccolo studio sulle conseguenze strutturali, organiche, che un organismo subisce facendo i mesi di sciopero della fame che ha fatto, cioè acqua e basta. Quindi le sue condizioni sono sempre in stato di gravità. Lui è a rischio. Se non è a rischio della vita, deve diventare un ermano se non viene ospedalizzato. Allora, secondo le leggi internazionali, lui è in condizioni gravi, per cui dovrebbe essere trasferito dalle prigioni, dalla prigione, a un ospedale, perché gli siano fatto un check, ecco. Tra l'altro, da notare, recentemente anche su una sollecitazione verso Cirina abbiamo chiesto, e sperando appunto, non dico più che forse sono finiti i problemi tecnici, siamo ritornati di nuovo con Dino e andiamo subito. Dino, tu sei tra i promotori di questa petizione per la liberazione per il controllo, per il monitoraggio delle condizioni di Samer Issawi. Ci puoi raccontare quali sono le sue condizioni ora? Le sue condizioni sono quelle che si possono tranquillamente definire critiche. Dopo il lungo periodo di digiuno a cui lui si è sottoposto, e anche se non è in pericolo di vita immediato, però certamente l'assenza di controllo medico, l'assenza di assistenza medica, come lui richiede, si potrebbe dire di alto profilo perché è in quelle condizioni critiche, questa mancanza di ogni forma di cura rischia veramente di porlo in una... rischia veramente di mettere a repentaglio la vita, oppure di rendere una persona disabile, non più curabile, un disabile nella sua giovane età, capite? Allora la richiesta nostra è quella che lui venga o liberato e restituito alla famiglia a Gerusalemme, non in Italia, oppure che venga trasferito in un ospedale e abbia le cure, come si suol dire, del caso, che nel suo caso sono cure di grande rilevanza medica, perché è in condizioni molto critiche. Questo è il nostro tentativo. Noi abbiamo anche interpellato sia Noam Chomsky che Norman Finkelstein, Ilan Pappé e altri personaggi d'accordo, tant'è vero che hanno firmato la petizione. E la nostra trasmissione purtroppo oggi finisce qui con gli indesiderati problemi tecnici. Sarà l'entità sionista, sarà l'attrezzatura che fa schifo o non lo so. Di certo sappiamo che noi siamo Radio Default, la radio con una scarpa e una ciabatta, ma siamo anche Radio Default, la radio locale a vocazione universale. E quindi alle 21:08 minuti primi noi vi salutiamo. Questa che avete sentito è Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi dalla Palestina occupata a cura dell'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese. Ricordiamo i contatti della radio, che sono www.radiodefault.it per vedere il nostro fantastico sito messo a nuovo, ipertecnologico 2.0 e via dicendo, anche se non piace al nostro Presidente Supremo. E ricordiamo i nostri contatti per comunicare con noi, per intervenire e fare domande in trasmissioni. C'è il nostro contatto Skype, che è radio.default, e la nostra pagina Facebook, che è Radio Default. Noi, e poi c'è alla fine il blog, dove potete trovare le differite delle nostre trasmissioni insieme a numerose altre interviste e traduzioni di articoli sempre sulla questione palestinese, che è castelliperlapalestina.noblogs.org. Noi vi lasciamo alla nostra sigla, uno stacco musicale, e alle 9:30 riprenderà Rise Up. Noi invece ci risentiamo giovedì prossimo, sempre alle 19:30, sempre sulle fantastiche frequenze di Radio Default, in cui faremo il nostro quotidiano, il nostro settimanale notiziario, e proveremo, se ci riusciamo, a risentire il compagno Dino. E allora per oggi è davvero tutto, buona libertà per la Palestina, buona libertà ai castelli romani, buona libertà a tutti e tutti. بتعصب الوطن من اجل دمك اخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومه على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي صاحب العرق الغربي فلسطين اتبنى